9 in punto, la versione di Oscar. Abbiamo visto invece elite o sedicenti elite irresponsabili, non tanto a criticare il governo per quello che non faceva o non faceva abbastanza, ma per buttare giù il governo. E queste elite, attenzione, o sedicenti elite sono sempre le solite, quelle della rendita parassitaria, quelle della rendita burocratica, quella della rendita finanziaria, quella della rendita editoriale. Eccoci qua, Oscar Giannino vi ha fatto sentire le parole pronunciate a Cortina da Renato Brunetta pochi giorni fa, che hanno contribuito a rialimentare, a espandere ancora e a intensificare l'energia con cui sui giornali si commenta da settimane in un crescendo, da mesi in un crescendo, e soprattutto dalla ripresa post-estiva, vedremo perché in un crescendo, il tema che affrontiamo anche oggi. Vi dirò che io lo affronto senza esserne troppo convinto, però bisogna toccare i temi che sono in cima all'agenda nazionale, a prescindere da quello che ne può pensare il conduttore. Il conduttore ritiene e dichiara che qui la libertà di stampa non sia a rischio, ma il problema è che invece, inevitabilmente, è giusto porsi il problema quando la vita nazionale diventa dominata da alcuni temi di fondo, del tipo: è legittimo o non è legittimo, in che forme si bisogna farlo, in che forme è improprio farlo, esprimere critiche, rivolgere domande che hanno a che fare con lo stile personale di vita del Presidente del Consiglio, visto che di questo si parla e questo il tema da aprile di quest'anno, per via di tutte le circostanze che sono emerse intorno al fenomeno Tarantini, chiamiamolo così. È legittimo poi che il Presidente del Consiglio reagisca a queste domande, a questa critica, a questa campagna incessante, sto parlando chiaramente di Repubblica, che l'ha animata più di tutti gli altri, non con risposte alle domande, non con polemiche, ma querelando. Che cosa succede di un paese in cui da un certo momento in avanti i giornali vicini al Presidente del Consiglio iniziano a propria volta, io dico a propria volta, mi prendo la responsabilità di questa ricostruzione, a roteare la clava della delegittimazione e demonizzazione personale e intraprendono la strada di un giornalismo da mazzieri, come mi sembra che sia corretto definirlo. Si ferma questa spirale? Non lo so, io ho l'impressione che il tutto abbia come scenario il 6-7 ottobre, la pronuncia della Corte Costituzionale sull'Odolfano, e che in larghissima misura entrambi questi atteggiamenti siano atteggiamenti che esprimono un certo eccesso di milizia politica da parte del giornalismo, che non censuro perché ovvio viviamo in un paese particolare in cui da 15 anni esiste un fenomeno particolare, si chiama Silvio Berlusconi, e come 15 anni ci hanno insegnato, questo Silvio Berlusconi, un politico anomalo per la sua anomalia, divide, spacca e inevitabilmente ripone alla politica italiana sempre lo stesso problema: chi vuole liberarci dal demonio e chi invece dice meglio questo demonio dei diavolacci che stanno dall'altra parte. Dico che, e qui concludo, mi parrebbe più opportuno interrogarsi su quanto l'attesa del sì o del no della Corte all'Odo Alfano condizioni la maniera di fare il giornalismo, piuttosto che la libertà o meno minacciata del giornalismo, ma questo è il mio punto di vista, perché come immaginavo, avvicinandoci all'Odo apprenderemo nei giorni successivi a oggi che appena il lodo casca o si apre una maglia, ecco tutte le indagini che ripartono per travolgere Berlusconi. Mi riferisco a quello che già oggi si può leggere su Repubblica. Questa mia introduzione per dire che tutti i punti di vista sono legittimi, quello che bisogna evitare, io lo dico sempre tutte le mattine, qualunque sia il tema che affrontiamo, è un linguaggio inappropriato e giudizi che non hanno a che vedere con la libertà di opinioni, ma che hanno a che vedere invece con la diffamazione. A me non piace il giornalismo della diffamazione, dei dossier e di chi l'ho vista nei cestini. Avrete capito perché non lavoro più con Vittorio Feltri. Detto tutto questo, vi presento gli ospiti questa mattina. Abbiamo con noi Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Battista. Giannino. Abbiamo Oliviero Bea, giornalista, autore sul tema del libro I Nuovi Mostri e che sarà in prima fila nella nuova iniziativa editoriale che parte tra pochi giorni, guidata da Antonio Padellaro, cioè Il Fatto. Buongiorno Oliviero Bea. Parte domani. Esattamente. Domani. E poi abbiamo Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica. Buongiorno Giannini. Buongiorno. Io direi che è il caso di partire da lei, perché l'appello per la libertà di stampa che è arrivato a 400.000 firme, moltissime importantissime firme internazionali, è promosso dal suo giornale, e il suo giornale che anima una campagna del tutto legittima, molto dura e molto aspra, perché ritiene che lo stile personale nonché politico del Presidente del Consiglio ponga un problema grande come una casa, ed è convinto che le reazioni messe in campo dal Presidente del Consiglio configurano un attentato o comunque una minaccia alla libertà di stampa. In cosa si configura davvero poi la minaccia al nostro mestiere? Ma intanto dobbiamo, secondo me, inquadrare il paesaggio, perché quello è importante. Partiamo dal fatto che il macigno del conflitto di interessi resta tuttora irrisolto. Berlusconi è titolare di concessioni televisive private con le sue tre reti, in più c'è la RAI che controlla in quanto Presidente del Consiglio. In RAI sappiamo che cosa è successo, quello che è sempre accaduto anche con precedenti governi, per carità, TG1, TG2, RAI 1, RAI 2 completamente occupati dalla maggioranza politica attualmente al potere, il che, ripeto, è fisiologico purtroppo per come vanno le cose in Italia. In più si è aggiunto un progetto di chiara normalizzazione anche su RAI 3, il Presidente del Consiglio ha indicato in televisione i programmi che secondo lui danno fastidio e creano problemi alla maggioranza, unico caso nel mondo secondo lui, in realtà funziona al contrario, ma comunque Hanno Zero, Report, Ballarò, Che Tempo Che Fa, Parla Con Me, li ha proprio snocciolati uno per uno. E adesso siamo alla vigilia anche lì di cambi ai vertici sia della rete sia del TG. Da ultimo, ecco, lei lo ricordava prima, l'uso di giornali di famiglia come strumento della lotta politica con altri mezzi, il killeraggio ai danni di Dino Boff e poi di Fini, secondo me è un fatto che grida vendetta dal punto di vista professionale. E poi ci sono le denunce contro le 10 domande di Repubblica, il che è un caso unico direi in qualunque democrazia occidentale, non perché l'utilizzo della querela debba essere discutibile e discusso, e secondo me è assolutamente legittimo, ma non in un caso in cui un giornale rivolge soltanto domande. Se un giornale scrive qualche cosa che non corrisponde alla verità o che diffama l'immagine di una persona, è giusto che questa quereli, ma querelare 10 domande secondo me è un'anomalia assoluta. Si aggiungono poi le denunce all'Unità, che peraltro anche lì ha riportato indiscrezioni raccontate da un senatore del PDL, senatore che non è stato querelato, è stata querelata soltanto l'Unità, e poi denuncia nei confronti dei quotidiani stranieri. Ecco, questo è il paesaggio nel quale noi ci stiamo muovendo. Allora, l'insieme di queste cose, secondo me, secondo noi, giustifica una manifestazione come quella che si terrà il 3 di ottobre, non già per dire ci sono le milizie alle porte e domani rischiamo di venir chiusi e di veder conculcati i nostri diritti di fare libera informazione, perché se fossimo a questo una manifestazione del genere sarebbe già tardiva, però ci sono tutti gli elementi per rappresentare il disagio di chi vuol fare libera informazione senza subire questi condizionamenti. Battista, ho messo Brunetta all'inizio della nostra trasmissione perché mi sembra che poi Brunetta sia stato il più esplicito nel dar voce a un atteggiamento che è la vera risposta politica, secondo me, a questo tipo di pressioni mediatiche, e che spiega, non voglio dire giustifica, ma spiega dal loro punto di vista perché il Presidente del Consiglio da qualche mese a questa parte abbia deciso di riservare alle domande di Repubblica, alla campagna sui casi di Noemi, D'Addario e così via, un atteggiamento diverso da quello della battutina di disprezzo che in passato riservava a questo genere di attacchi, ma invece abbia cambiato marcia e abbia detto no, beh, adesso il gioco si fa duro e bisogna adottare il criterio duro. E mi pare che l'argomento sia, signori, torniamo al dunque, la politica ha una legittimità nella sovranità popolare e io non mi faccio piegare dai poteri impropri che fuori dalla legittimità popolare abbiano in mano banche, finanza, si chiamino Repubblica, Giovanni De Benedetti, si chiamino domani Montezemolo e che ne so io, perché questo tutto evoca insieme Brunetta, noi non ci pieghiamo. È corretto in qualche maniera vedere questo tipo di reazione come una reazione ai poteri illegittimi in quanto non sovranamente espressi dal popolo nelle urne, o c'è un eccesso anche in questa reazione, secondo lei? Trovo assolutamente spropositata la reazione. Allora, lo schemino dei poteri forti che tramano nell'ombra è quanto di più lontano dalla realtà così la possiamo fotografare. Allora, i poteri forti sono diventati poteri debolissimi che scendono a patti con la politica, come sempre hanno fatto, in questo momento in modo particolarmente corale. Quello che è accaduto nel 2008 è qualcosa di più di una vittoria elettorale, è un trionfo su 15 anni di cosiddetta seconda repubblica. Berlusconi ha saldato i conti, diciamo così, della lotta politica, che è cominciata più o meno, questa fase della lotta politica è cominciata nel 93 e nel 94, ha demolito l'opposizione molto più di quanto non accada generalmente nelle democrazie occidentali, ha un'opposizione che praticamente non esiste. Poi esistono dei giornali molto aggressivi, alcuni giornali molto aggressivi che legittimamente fanno quello che devono fare, cioè che ritengono il loro cuore, cioè rispetto, anche loro hanno un mandato con i lettori, e se i loro lettori gradiscono una certa impostazione politica vanno in edicola, se non vogliono non vanno in edicola più, non lo comprano più, cioè l'articolazione dei poteri, delle opinioni così è assolutamente, dovrebbe essere assolutamente normale, cioè è normale che un Presidente del Consiglio, che un governo governi sulla base della maggioranza che ha, governerà bene o male, questo lo si vedrà al termine del mandato, è assolutamente normale che l'opposizione auspichi le difficoltà del governo, chiaro, non è una forma di boicottaggio, di diserzione, come è stato detto, è normale che un'opposizione voglia vedere indebolito il governo, un'opposizione politica, culturale, giornalistica e così via, e avere la rivincita per la prossima volta. Che poi ci riesca è tutto un altro discorso. Parliamo di atteggiamento. Allora, così come bisogna essere un pochino chiari, secondo me, nelle cose, così come non diciamo che sono domande le 10 domande di Repubblica, certo hanno il punto interrogativo e quindi sono domande, ma se io faccio una domanda, Massimo Giannini, è vero che lei è un pedofilo? Massimo Giannini, è vero che lei molesta le ragazze? Massimo Giannini, non sono domande, hanno una formula, sono domande, e quindi siamo così. Caduta la linea? Temo di capire di sì? Vede, quando uno fa anche solo gli esempi a ficta usando domande di quel tipo cade la linea, no. Bea, è in linea lei? Sì, ecco. Francamente sì, ammetto di sì. No, perché mi interessava un punto di vista, il suo punto di vista, su una domanda semplice. Lei da anni, in realtà, per chi la segue sono tante, testimonia successivi livelli di imbarbarimento, insomma, del sistema dell'informazione, perché tutto quello che dice, fa, i libri che ha scritto, appunto, i nuovi mostri e così via, sono delle testimonianze dal suo punto di vista. Allora, che cos'è che fa la differenza dal graduale scivolamento che lei testimoniava e denunciava e di cui porta le conseguenze, quindi bisogna riconoscerlo, a oggi? C'è stato un ulteriore salto di qualità, una linea di frattura che a questo punto deve decidere chi fa questo mestiere a dire: guardate, è stata varcata una soglia di sicurezza, o altrimenti il degrado che lei ci raccontava continuerà senza in realtà rottura definitiva? Allora, le rispondo prestissimo, dopo una piccola premessa, quindi non si faccia venire i capelli dritti per questa Come no, solito, magari come noto non ce l'ho così, è un pessimo, no, lo so, Gianni, ma adesso a parte gli scherzi, intanto io ho apprezzato lo sforzo mi pare in buona parte riuscito con cui lei ha messo a fuoco la questione all'inizio della trasmissione. Poi sono d'accordo con Giannini in linea di massima sull'impostazione, su tutto, anzi credo di essermi dimenticato di aggiungere la mia firma a quella raccolta di firme, quindi approfitto radiofonicamente per dire a Giannini che consideri letteralmente anche la mia, se gli interessa, per il discorso sulla libertà di stampa. E infine devo dire che in parte sono d'accordo con Battista per quando parla per esempio della debolezza dei cosiddetti poteri forti, quelli a cui si riferiva in qualche modo Brunetta, fino a un certo punto sono poteri forti un po' più deboli, ma in un paese molto più debole, quindi il giorno in cui dovesse Berlusconi cadere in qualche modo si aprirebbe quel cratere che i cosiddetti poterucci di cui parlava Brunetta vorrebbero incaricarsi di riempire. Detto questo, quindi, voglio dire, sia pure a livello basso, ma questo tipo di meccanismo c'è, e come, e riguarda i giornali, riguarda gli imprenditori, riguarda una serie di poteri, appunto. Sono d'accordo fino a un certo punto con Brunetti, con Battista, quando dice è normale, è legittimo che l'opposizione voglia fare la guerra al governo. Certo, sul piano della teoria politica non ci piove, è così. Sul piano di un paese sfasciato, che culturalmente va indietro, che economicamente ha i problemi che ha una crisi di identità come probabilmente non è mai accaduto dal dopoguerra, attenzione che il problema si riduca al fatto della legittimità di una opposizione a far cadere il governo e di un governo che si dice legittimato soltanto dal voto, uso questo soltanto nel modo più virgolettabile possibile, soltanto dal voto, e il criterio della responsabilità in politica, quello dove è finito, cioè ti votano e quindi c'è una storia alle nostre spalle che dimostra che persino lo stesso Hitler, non faccio paragoni naturalmente, visto che la nostra è casomai una Weimar alla matriciana. Comunque, siccome le debbo una risposta, spero di aver reso l'idea del mio punto di vista in generale, le debbo una risposta sulla domanda. Lei, Giannino, quando lei parla di libertà di stampa, dobbiamo ricordare agli ascoltatori che essa è un criterio relativo, come la democrazia, come tutto, quindi è un terreno scivoloso parlare di libertà di stampa in assoluto. Ci si avvicina a una maggiore libertà di stampa o si regredisce, si torna indietro da questa libertà di stampa, quindi non è così facile rispondere alla domanda sulla linea di confine per cui la cosa è diventata drammatica mentre fino a ieri non lo era. Io mi limito a dire, cosa che purtroppo né i lettori del Corriere della Sera, né i lettori di Repubblica, né i lettori di quasi tutti i giornali italiani hanno avuto la possibilità di verificare, perché questo libro non è mai stato recensito. Io nei Nuovi Mostri parlo di una cosa che è avvenuta nel 93-94, e cioè quando è passato il maggioritario in politica, sia pure il maggioritario un po' straccione, un po' medievale, incompiuto, con tutte le contraddizioni per cui non conveniva mai a nessuno completarlo facendo i conti elettorali, e è successo in realtà per la libertà di stampa e per la stampa un processo formidabile che è passato quasi sotto silenzio. La devo interrompere solo perché c'è appunto la condizione della libertà. Eccoci tornati in studio, avevo interrotto Bea nel ragionamento per il quale nel 93-94 col maggioritario stava dicendo nell'informazione, l'informazione era stata levatrice potente di quella cosa, però io l'ho interrotta, quindi concludiamo. Dunque sì, anche perché questo permette di rispondere alla domanda sullo stadio in cui siamo a proposito di libertà di stampa in Italia, manifestazioni, proteste e tutto il resto. Dunque, nel 93-94, mentre in politica si cambiava con un maggioritario a stragrande maggioranza nel referendum, anche lì ci sarebbe da fare un discorso che però vi risparmio, nella stampa, maggioritario mai completato, è sempre piuttosto cialtronesco, nella stampa succedeva un fenomeno straordinario sotto gli occhi di tutti, una stampa italiana che non era mai stata straordinariamente indipendente, libera e via dicendo, per la mancanza di editori puri e tutto il resto, e mancanza di tradizione, se si vuole, trovava nel maggioritario l'alibi per accasarsi. C'era Berlusconi, come è stato detto, del resto come tutti sanno, c'era Berlusconi da una parte e gli anti-berlusconiani dall'altra. Che cosa è successo alla gran maggior parte dei colleghi, delle testate, delle televisioni, con le procedure che sappiamo, che si sono riconosciuti da una parte o dall'altra? E quindi hanno trovato l'alibi per essere berlusconiani o anti-berlusconiani. Questo è andato a scapito della libertà di stampa e dell'idea che un giornalista dovrebbe informare su tutto. Io vorrei sapere tutto tutto il possibile per potermi orientare politicamente nelle elezioni e nella mia vita di tutti i giorni su Berlusconi, le 10 domande, tutto il resto. Basti pensare che la Padania gliele faceva nel 98 le domande su Edil Nord, per dare l'idea di come funzionino i meccanismi, e voglio sapere tutto anche sul potere dell'opposizione, su quello che combina D'Alema piuttosto che Bersani o Franceschini, tutto il possibile su tutto. Invece da allora è stato considerato per gli italiani normale che la stampa di sinistra informasse su Berlusconi e che la stampa di Berlusconi informasse sull'opposizione. Questo ha creato una condizione di rassegnazione e di dimezzamento dell'idea della libertà di stampa che sta imbarbarendo il paese. Per questo oggi bisogna, come dire, porre la questione in senso più generale, perché sennò se ne riparleremo fra un anno, fra due, con un paese abituato ancora peggio a una mancanza di autonomia della stampa e di responsabilità individuale e collettiva sia dei giornalisti che dei lettori. La situazione è molto grave, non dipende solo da Berlusconi, dipende dall'insieme dei fattori. Io devo dire che mi ritrovo abbastanza in questa lettura di Bea, che dice c'è stato un eccesso di corsa alle iscrizioni, ascrizione di molti giornalisti che indossano una casacca, ne sono fieri. Sentivo ieri Vittorio Feltri che diceva in televisione: ma qual è il problema? Io ne ho una di casacca, cioè ho sempre la stessa, è inutile che mi criticate. Se poi sono più moderato o picchio, ma io sempre un punto di vista ho. Il punto di vista è una cosa, la casacca, come è stata usata, secondo me è un'altra cosa. Perché io, che non ho grandi simpatie, come è noto, sono un mercatista, insomma non è che mi spello le mani per i partiti di tradizione ex marxista. Detto questo, però, non è che posso confondere nel fare il mio mestiere la casacca di un politico imprenditore con un punto di vista. Il punto di vista lo dichiaro ai lettori o agli ascoltatori nell'interpretare i fatti. Cerco i fatti, ma una casacca significa appartenere ha un nesso di dipendenza. Questa è la differenza per me che sta tra un punto di vista dichiarato e una iscrizione, ascrizione, che secondo me dovrebbe essere abbastanza contraria al nostro mestiere. Battista, la domanda che le faccio è un'altra. Non è che per caso l'eccesso da una parte di giornalismo militante, ma soprattutto una particolarità dell'informazione è quella che poi finisce per dare più ragione a chi denuncia come Repubblica? Mi riferisco al fatto che poi, mentre nei giornali c'è una, a me pare persino troppo animata e violenta, partecipazione al gioco del prenderle e darle, in realtà poi c'è un punto particolare dell'informazione in cui questo meccanismo identifica poi dei processi rituali di cacciata o di assunzione di qualcuno alla guida di testate, trasmissioni e così via, ed è la RAI perché è pubblica. Io temo che, anzi spererei che se rimuovessimo il problema della RAI pubblica forse non ci sarebbe più questo problema, ma sono minoranza. Allora, dal suo punto di vista, visto che quello è il punto su cui i presidenti del Consiglio, di entrambi i colori a dire la verità, quando vanno al potere di solito evocano cacciate che poi la controparte dice ecco la libertà a rischio, come si può almeno alla RAI tentare di disciplinarla diversamente questa cosa? Ma io penso che la RAI è come l'Unione Sovietica di Gorbaciov, irriformabile, quindi ormai sono giunto a questa conclusione, a meno che non si vada drasticamente a una sua privatizzazione, punto. Quelli sono gli editori, la politica è l'editore della RAI da sempre, ha diciamo articolazioni e configurazioni che variano di volta in volta, come anche detto Giannini prima. La RAI è questa, cioè se io sono il politico, che sono editore e decido chi è il direttore del TG1, TG2, TG3 eccetera eccetera eccetera, faccio semplicemente il mio mestiere, lo faccio imponendo una tassa chiamata canone, oltretutto, che quindi queste scelte vengono pagate dai cittadini, e decido che la RAI è così. L'unico modo per sottrarre la RAI al controllo della politica e dei partiti è che la RAI vada nelle mani di qualche editore vero che non sia la politica. Io, visto che appunto la sede, il nostro interlocutore, così, io mi domando questo, i neostatalisti, no? Quelli che in questi anni hanno detto peste e corna del mercato e così via, non ritengono forse che dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista della libertà di stampa, un eccesso di dipendenza dalle scelte del potere politico e dello Stato riduca i margini della libertà di stampa? Se faccio solo un esempio, è chiaro perché anche i cittadini, gli ascoltatori possano capire che cosa voglio dire. Se Marchionne dice che ci vogliono degli incentivi molto forti per l'automobile nei prossimi mesi, secondo lei questa cosa ha un rapporto o non ha un rapporto con il grado e con la qualità e con l'intensità della libertà di stampa? Secondo me sì, nel senso che se si chiedono, diciamo, delle elargizioni da parte del potere politico, il potere politico, diciamo così, tenderà inevitabilmente, chiunque sieda a Palazzo Chigi, a contrattare, a trovare delle contropartite, e questo è molto negativo. Quanto poi allo schieramento, al militantismo, eccetera, io penso che ci vogliano giornali militanti così come ci vogliono giornali che sono più, diciamo, sobri, chiamiamola così, non terzisti, secondo questa brutta definizione. Insomma, il mio modello è New York Times. New York Times è palesemente filo Obama, ma non gliene fa passare una negli editoriali. Se deve criticarlo su Guantanamo, sulla non chiusura di Guantanamo, se deve criticarlo per qualche ragione, lo fa. Che cos'è? Un complotto dei poteri forti che stanno dietro il New York Times o fa semplicemente il proprio mestiere? Poi esistono giornali militanti di sinistra, giornali militanti di destra, ma questo è il bello del pluralismo. Dopodiché noi dobbiamo attenerci a questa regola. La regola è esprimere un proprio punto di vista, ma non stabilire un regime del silenzio quando i tuoi, diciamo, interlocutori politici sono momentaneamente al governo o alla Casa Bianca o dove che sia. Questo è un po', diciamo, il vero vizio culturale che ci sta impedendo di vedere le cose. Sono molto d'accordo con Battista e aderisco immediatamente alla sua osservazione. Se si mette come titolo di apertura, magari senza virgolette, come ha fatto solo 24 ore per esempio, secondo me, la richiesta di Marchionne dicendo auto, incentivi o caos o tragedia, sì, in quel caso si esercita una pressione impropria. Questa è la mia idea e io aderisco. Perché faccio questo esempio? Un po' scomodo per me, siamo Radio 24, quindi non è proprio... Perché ritengo che poi rispetto all'informazione politica in cui ce le si dà e le si prende con fin troppa virulenza, in realtà nella mia esperienza quella economica finanziaria è il vero settore dell'informazione in cui altro che se è molto difficile parlare. Faccio l'esempio di oggi: i pubblici ministeri della Procura di Milano hanno detto no al piano fatto dalle banche per il gruppo risanamento di Zunino Immobiliare e oggi chiedono di fronte al giudice fallimentare che si vada avanti con la procedura fallimentare. Ecco, perdonate, ma credo che un fatto di questo genere, che è la prima volta che avviene di fronte a banche come Banca Intesa, con tutti i soldi che hanno dato agli immobiliaristi, è la prima volta che c'è una vicenda di questo tipo con una procura come quella di Milano che dice care banche non ci prendete per i fondelli, ecco, io l'avrei messa in prima pagina, devo dire. Non la trovate se non in fondo alle pagine economiche, quindi altro che se ci sono pressioni, secondo me sono più importanti in questo settore qua dell'informazione che nella politica. La politica, è la mia esperienza, ti scegli il giornale e puoi dire più o meno qualunque cosa, invece su questi argomenti qualunque sia il giornale è molto problematico, molto problematico. Alcuni ascoltatori che sono in fila per partecipare. Fabrizio da Torino, prego. Guardi, buongiorno, mi collego proprio a quest'ultimo suo spunto, nel senso che io mi collego spesso alle pagine del quotidiano Repubblica Online, il TGcom, il Corriere, la Stampa, ed è bello notare proprio il posizionamento delle notizie all'interno della home page di questi quotidiani. È quello che le dico, io leggo sovente la Repubblica perché ritengo che sia fatto molto bene come quotidiano, nel senso che le notizie sono molto chiare e leggibili, però quello che infastidisce è che mettono sempre in evidenza e in primo piano le notizie contro Berlusconi, e questo penso che sia una volontà troppo forte anche per chi magari non condivide sostanzialmente il loro modo di dare queste notizie contro Berlusconi, ma anche la stessa notizia è bello vederla come viene messa nei vari quotidiani, quindi ti rendi conto che effettivamente l'impronta purtroppo di Repubblica è sempre contro Berlusconi. Per quelli che comprano Repubblica è la chiave del successo di Repubblica, quindi su questo io non so neanche dare torto. Lei dice mette a paragone, lei evidentemente può permettersi di comprare molti quotidiani, fossero in molti come lei in Italia, ma è un numero sempre minore, e quelli che comprano Repubblica, anzi vedremo con la nascita del Fatto Domani se non c'è anche una fetta d'opinione pubblica alla ricerca di un quotidiano che picchi ancora di più per certi versi. Io per molti versi penso che sarà così. Abbiamo poi Andrea da Roma. Prego Andrea. Sì, buongiorno. Io sono uno di quelli che non si informa quasi più sui giornali, quasi praticamente mai in televisione, e mi auguro che non che picchi ancora di più, che picchi meglio. Perché guardate, molti sono si chiedono perché i giornalisti non fanno certe domande ai politici. A parte di parlare di libertà di stampa, parliamo di condizionamento, ma perché i giornali, perché dobbiamo aspettare uno spagnolo che fa una domanda a Berlusconi? Perché non c'è un giornalista che chiede a Bossi le 10 domande che fece sulla Padania 10 anni fa, che gli davano del mafioso? Perché non c'è un giornalista che chiede a Borghezio conto di un documentario fatto in Francia in cui lui sostiene i neofascisti francesi dandogli consigli? Per fare un ultimo esempio, quella famosa manifestazione in cui Di Pietro disse una frase sul Presidente della Repubblica, si parlò tutto il giorno di Di Pietro, quando il fratello di Borsellino fece degli interventi visti su internet, su YouTube, da prime pagine, in cui parlava di Genchi che sarebbe stato il prossimo a essere stato intimidito, in cui parlava già lui del telecomando in cui, da cui sarebbe partito l'ordine di, insomma, di far saltare l'autostrada quando passava Falcone. Allora non che picchi di più, che picchi meglio, cioè che faccia domande, e sono d'accordo, vanno fatte a tutti, ma vanno fatte. Ecco, qui non, io non le sento, io ogni volta che sento delle interviste dico ma perché? Perché non si prima quando... però mi hanno levato la linea perché succedono anche queste cose e io volevo chiedere, invece che continuare a fare domande, anche le qui fanno tutti domande, vorrei sapere da chi interviene qual è la sua risposta, cioè il problema è perché non gli fanno domande, mi interessa se che voi diciate perché sono condizionanti, da che cosa, perché non vogliono fare, pensano che altrimenti non faranno carriera in un giornale, se stanno in un giornale che non è di Berlusconi perché dovrebbero pensarlo, ma solo per dire che questa storia delle domande retoriche, mettiamoci anche un punto, andiamo più rapidamente in sintesi a quello che ciascuno pensa. Eccoci tornati in studio, ancora brevemente due ascoltatori e poi Giannini e Bea. Carlo da Modena, prego Carlo. Buongiorno, niente, soltanto la mia impressione è questa, che ci sia un po' in chi ha messo in atto questa guerra all'arma bianca mediatica una certa dose di ingenua presunzione, ma gli elettori hanno la loro visione, la loro logica, le loro situazioni. Io brevemente la mia esperienza, io ho 50 anni nella mia vita, ho votato solo due partiti, il partito di Craxi, il partito socialista di Craxi e Forza Italia. Nel momento che mi trovassi sbarrata la strada ancora una volta, darei dispiacere sempre alle stesse persone, insomma. Forse è il caso anche di considerare un po' l'inutilità di tutto questo, tutte queste cose. Carlo mi sembra su una posizione di scetticismo saggio, ecco, cioè dice siamo tutti un po' troppo partigiani, però il fenomeno Berlusconi in effetti è un fenomeno di particolare diversità rispetto alla politica a cui eravamo abituati. Dopo 15 anni continua a essere irriducibile rispetto alle categorie della politica tradizionale, professionale, alla lettura weberiana del mandato politico e così via. Da questo punto di vista è riuscito persino a far rimanere oramai Ferrara, Giuliano Ferrara, uno dei suoi cantori per certi versi, senza parole da molto tempo, il che significa che continua a stupire per questa forza rigeneratrice che ha nella sua capacità di proporre contraddizioni palesi ed evidenti. Cioè, ammettiamolo, chiunque di noi in una vita professionale, se facesse un decimo di quello che si sente intorno alle storie di Palazzo Grazioli, sarebbe rovinato la vita. È inutile che noi ci illudiamo. Lui si può permettere, per la forza che ha, invece di dall'alto dire ma queste sono diffamazioni. Daniele D'Ascoli, prego Daniele. Daniele? È in linea? Mi sente? Sì, pronto? prego, vada al punto. Volevo fare una domanda. Secondo lei la mancanza di onestà intellettuale che non si riconosce ai lettori e anche agli elettori che vengono trattati come, virgolettato, bambini di 9 anni, non è un po' controproducente? Lei non ritiene che, faccio un esempio, il grande aumento di fette di mercato di Radio 24 non sia un riflesso di questo? Riconoscere a chi ascolta, a chi legge, il fatto di avere un'intelligenza che muove le rotelline e riesce a giudicare quello che legge? Grazie della domanda. Non sta a me naturalmente menar vanto per il successo di Radio 24. Io credo che da questo punto di vista, per esempio, Repubblica è un giornale che ha diffusione e cifre di venduto ragguardevolissime, e il caso di maggior successo di innovazione dell'editoria italiana nel secondo dopoguerra, quindi da questo punto di vista, se la mettiamo così, se numero di diffuso venduto uguale riconoscimento da parte del lettore della maturità, non lo so, perché è un criterio che confina un po' troppo con il criterio del vincere o perdere le elezioni all'ultimo voto. Io vorrei riservare il criterio numerico appunto a quello, al torneo elettorale. Comunque, Giannini, conta di più la battaglia politica o conta di più le condizioni dell'informazione? Perché questo tema non riusciamo mai in realtà a scioglierlo. Un po' di lettori e ascoltatori dicono però esagerate, troppa milizia, troppa unilateralità. Cioè, Repubblica non ci guadagnerebbe a metterci un po' di editorialisti che facessero un po' da controcanto, come fa tradizionalmente il Corriere della Sera, che fa una paginata sulle signorine pugliesi d'Alemiane e una paginata a fianco su quelle. Non ci guadagnerebbero tutti? Ma guardi, noi non è che risparmiamo né il lavoro giornalistico di indagine né gli editoriali di critica nei confronti del centro-sinistra. Questo vorrei che fosse chiaro anche con riferimento al discorso che lei faceva prima a proposito delle casacche. Noi abbiamo naturalmente una ispirazione di fondo che è anche di tipo politico, questo non ho difficoltà ad ammetterlo, però la casacca non l'abbiamo mai vestita. Quando ci fu il famoso scandalo dei furbetti del quartierino, abbiamo una banca pronunciata da Fassino al telefono con consorte, noi fummo di una severità, non voglio dire unica, ma quasi nel panorama giornalistico, contro i vertici dell'allora partito dei democratici di sinistra. Quindi da questo punto di vista l'idea della casacca io la rifiuto in radice. Poi voglio aggiungere un'altra cosa con riferimento a quello che diceva Pierluigi Battista a proposito delle nostre 10 domande, anche altri ascoltatori hanno sollevato qualche dubbio, sentivo prima, su questo. Voglio ricordare che le nostre 10 domande non nascono né dal nostro livore anti-berlusconiano né dalla ricerca spasmodica e diciamo pure voyeuristica della politica nel buco della serratura, cioè da quello che è stato impropriamente definito il gossip. Non è questo. Noi ci siamo mossi all'indomani di una notizia che abbiamo pubblicato in poche righe, ma che poi abbiamo visto che cosa ha prodotto, e cioè Berlusconi ha partecipato alla festa di compleanno di una ragazza allora sconosciuta, Noemi, a Casoria. Negli stessi giorni la fondazione vicina a Gianfranco Fini, Fare Futuro, ha fatto un'uscita molto dura sull'utilizzo delle veline in politica. Un giorno dopo la moglie del Presidente del Consiglio, prima in un comunicato all'Ansa, poi in una chiacchiera fatta sia con noi che con la stampa, ha parlato di suo marito come di un uomo malato che pretende donne come le vergini si danno al drago. Quindi ho chiesto, dice Veronica Vario, alle persone vicine a mio marito di stargli vicino come si sta vicino a una persona malata. Ecco, da lì sono nate le nostre domande. Noi non abbiamo fatto altro che riprendere questi filoni e rivolgere domande su questi argomenti al Presidente del Consiglio. Quindi, voglio dire, ci siamo mossi non già per il nostro furore ideologico, ma per una serie di elementi che erano a disposizione e che credo in qualunque altro paese del mondo avrebbero innescato nella libera stampa una reazione analoga. Tutto qua. Lei lo sa che in realtà la tesi che sta dietro alle reazioni dapprima infastidite, poi mazzieri, come li chiamo io per intenderci, è quella che anche in larga misura la signora Berlusconi, nonché alcuni dei suoi figli con le loro prese di posizione pubblica, derivino dall'influenza insistente, diretta, di Repubblica, di chi la dirige, eccetera, eccetera. Cioè l'accusa che vi viene rivolta, e qui torniamo al Brunetta con cui abbiamo iniziato la trasmissione, è quella di giocare un ruolo che certo si esprime poi dialetticamente e polemicamente anche con le 10 domande e con quindi inchieste e critiche giornalistiche che nascono da fatti come quelli che lei ha richiamato iniziali, cioè il fatto di apprendere che era andato a una festa a Casoria, ma poi vi si imputa da parte del centrodestra di essere in realtà attori, non commentatori di tutto questo. Sì, questo lo capisco, Giannino, mi perdoni, però lei è una persona troppo intelligente per sospettare che Veronica Vario si muova su input che arriva da Repubblica. Onestamente, pensare questo è alimentare davvero i fantasmi del complotto giudo-pluto-massonico che ormai tanta parte del vertice del centrodestra comincia a vedere, da Berlusconi a Tremonti a Sacconi, adesso anche Brunetta. Siamo seri, vogliamo pensare davvero che De Benedetti, per quale ragione non lo so, stia complottando contro Berlusconi, vuole forse andare a Palazzo Chigi De Benedetti? vi prego, veramente. Ecco, Giannini, è un parlare d'altro che secondo me ci porta veramente fuori strada. Su questo scenario di un De Benedetti che appoggia magari, che ne so, Montezemolo, in effetti inizio a sorridere anche un po' io. Comunque, temo che fino a che non apprenderemo come si pronuncerà la Corte, i toni non faranno altro che salire ulteriormente. Vediamo il fatto che esce in edicola, e auguri a Padellaro e alla sua band of brothers che esordiscono domani. Un giornale in più arricchisce il paese. Si sarà capito che io mi sento un po' ormai un pesce fuor d'acqua con un ex giornalista, perché non riesco più a trovare il modo in giornali così incasaccati per esprimere meglio il mio modestissimo mestiere, ma in me, come tanti, probabilmente la distinzione sta tra punti di vista legittimi da dichiarare sempre e casacche da tentare di non indossare mai. Ringrazio Giacomo Spunta in regia e Alessandro Marco Turri in redazione. La linea al giornale radio, appuntamento a domani.